好家园。 首都宗志伟倡导平安北京，人人共建北京平安，人人共歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天十点、22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 你好，亲爱的朋友，欢迎光临歌舞剧场，我是你的朋友古月。今天为你带出的是威尔第的三幕歌剧《茶花女》。这部根据小仲马的小说改编的歌剧，1853年在威尼斯进行首演后，很快就得到了全世界的赞誉，成为了各国歌剧院中最受欢迎的作品之一。难怪《茶花女》的原作者小仲马要说，50年后，也许谁也记不得我的小说《茶花女》了，但威尔第却使它成为不朽。下面让我们一起来分享其中最经典的曲目和唱段，由帕瓦罗蒂和萨斯兰演唱，波宁吉指挥伦敦歌剧院管弦乐团和合唱团演奏演唱。 là fuggevo ora si deve io voluta liviane i dolci freddi che sono uscita all'amore poiché quell'occhio al cuore ogni possente va Mr.

splendidi spiriti, il giovani arbore, e la patrocola facino sorriso dell'amor, dell'amor, dal dì che disse vivere, io voglio te. Vivere io voglio a te fedela, sì, dell'universo in me io vivo, io vivo quasi, io vivo quasi in cielo, io vivo in io vivo quasi in cielo, sì, io vivo quasi in cielo, io vivo quasi in cielo. Del commise fu la mia signora, perché voglio che mi rimbocchi quanto il cuore possiede, che mai sento lo spiglio grande a vivere qui stringhi, e facevi che fu il silenzio imposto, imposto or va bisogna Parigi, or vanne andrò a Parigi, questo colloquio non sappia la signora, il tutto vanno a riparare. Stop!

Salute! a stringermi qual figlia venga al seno, o genero. Rinasce, rinasce, ma